Il 21, 28 e 29 marzo torna a Mondovisioni la rassegna delle migliori opere documentarie internazionali al Cinema Europa e siamo qui per parlarne con Maddalena Bianchi, presidentessa dell'Associazione Culturale Kinodromo che organizza la rassegna. Ciao Maddalena e bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, un piacere come sempre. Allora Maddalena, finalmente possiamo dire che dopo due edizioni in streaming si torna in presenza. Quanta gioia c'è nel ritornare appunto in presenza al Cinema Europa? Direi incommensurabile. Siamo contenti perché per forza di cose Mondovisione è sempre arrivato in un periodo dell'anno in cui c'era già della stanchezza riguardo a quanto si vedeva online, a quanto si poteva fruire online, quindi lo vedevamo anche un po' come uno spreco, no? di cose belle, di cose interessanti a cui avremmo voluto dare il giusto risalto. Tornare in presenza è sempre bello e poi è sempre bello perché i titoli di Mondovisioni secondo me sono sempre molto validi, c'è sempre diciamo un po' un film per ogni filone di documentario, se così possiamo chiamarlo, ce n'è uno più a tema politico, uno più a tema sociale, di solito sempre uno sulle migrazioni e sulle dinamiche di spostamento dei popoli, insomma una rosa abbastanza ampia che restituisce il panorama del documentario contemporaneo sotto varie sfaccettature, accontentando un po' tutti quelli che possono essere gli interessi e le volontà di approfondire di chi fruisce della rassegna. Certo, ti volevo chiedere appunto come si inizia la rassegna perché parte già da oggi lunedì 21 marzo. Sì, diciamo che all'inizio non avevamo inserito questo titolo perché tra quelli appunto che c'erano stati proposti da Cineagenzia era quello su cui pensavamo di poter lavorare di meno, nel senso che di solito scegliamo quelli che possono permetterci di entrare in contatto con delle associazioni del territorio, di coinvolgere degli esperti e di fare un lavoro di questo tipo, perché Kinodromo di solito invita le varie maestranze del cinema a presentare il film e interagire col proprio pubblico. Su Mondovisione abbiamo sempre fatto un lavoro un pochino diverso, dato che sono film che vengono da tutto il mondo, quindi spesso non possiamo ovviamente avere in sala il regista o comunque chi ha scritto e chi ha lavorato al film. Cerchiamo sempre degli esperti che possano approfondire gli argomenti trattati e quindi abbiamo sempre fatto questo lavoro. Per questo motivo all'inizio non avevamo inserito nella rosa definitiva Writing with Fire il film di questa sera, però poi è stato il primo film indiano candidato agli Oscar dal suo paese nella storia e quindi a questo punto non era più possibile escluderlo, era un'occasione troppo importante per non fare anche questo film, quindi l'abbiamo inserito come una preview diciamo di quello che faremo dopo. Quest'anno tra l'altro siete anche partner del progetto Riconnessioni, ti va di raccontarci di che cosa si tratta e come nasce questa collaborazione? È un progetto che viene portato avanti dall'associazione Yucali, che coinvolge alcuni centri di aggregazione soprattutto per anziani, diciamo che loro fanno proprio un'attività capillare sul territorio di assistenza anche domiciliare e sotto vari punti di vista, tipo assistenza dalla compagnia, all'aiuto in casa, assistenza nell'approccio alla tecnologia. Noi come Kinodromo l'unica cosa che potevamo offrire erano dei biglietti del cinema per gli utenti di questo progetto ed è quello che faremo. Ti ho chiesto prima come inizia la rassegna oggi e ti chiedo anche come si conclude, così facciamo un po' l'inizio e la fine. La rassegna inizia oggi con Writing with Fire, che è un film che parla di queste donne giornaliste in India che appartengono alla casta più bassa della società, ma nonostante questo riescono a gestire un giornale indipendente. E poi passiamo come al solito per vari argomenti, c'è della Shelter che parla della frontiera del Sahel, che è l'ultimo avamposto prima del deserto del Sahara per chi si appresta ad affrontare l'attraversamento del deserto e poi del Mediterraneo. Poi abbiamo The Neutral Ground, che secondo me è il titolo più interessante di quest'anno, che parla della proposta di rimozione di alcuni monumenti confederati della città di New Orleans e di come le varie categorie della popolazione abbiano reagito a questa iniziativa. Abbiamo Dying to Divorce, che è un film che parla dell'erosione progressiva dei diritti delle donne in Turchia e dell'impossibilità che hanno di divorziare, insieme a quella che è è proprio un'erosione dei diritti di tutta la popolazione a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. E poi concludiamo con Monopoly of Violence sui gilet gialli, il movimento dei gilet gialli in Francia e tutto ciò che significa, e questa nuova violenza a cui siamo costretti ad assistere. Ecco, da parte della polizia e da parte di chi vuole reprimere questo movimento, condivisibile o meno che sia. Bene, insomma, direi che anche questa decima edizione di Mondovisione è veramente ricchissima di argomenti, anche di grande attualità, e quindi insomma non ci resta che vederci al Cinema Europa. Grazie ancora Maddalena per averci grazie raccontato mille. La rassegna, grazie. Allora ci vediamo lì. Buon pomeriggio.